My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pfizer. Ci siamo. Buonasera. Le 21 passate da 4 minuti, lunedì sera su Controradio si chiama Ragnar Pfizer. Check, one, two, check. C'è sta di microfono, questa roba della festa dell'unità vecchio. Sei anche tu. I remember. Sei anche tu che sei troppo alto. E c'ha ragione, vabbè. Un po' di amici nello studio 1 di Controradio, dal quale trasmettiamo in diretta da adesso fino alle 22.30. Vecchio, stasera ci abbiamo da di, guarda, non lo so, solo io ho un foglio pieno di appunti, siamo rovinati. Divertiti, o trovi il modo di fotocopiarmene metà, o te la dici tutta te, guarda. No, ne dico un po', poi dopo lascio la bega a Duccio, se la sbroglierà lui, insomma. Ah, senti? Allora, intanto stasera mega tributo, proprio generosissimo a Guru, che insomma tutti sanno è scomparso settimana scorsa, quindi stasera ci dedicheremo ai Gangstar e a Guru. Fantastico. E poi le butto lì così, vai, come ce l'ho scritto. Allora, ci siamo fatti la mail finalmente dopo tipo 3 mesi di trasmissione. Ci siamo decisi a fare una mail. Reattivi, di Ragnar Pfizer. Sì, siamo svegli. Insomma, se ci volete contattare per qualsiasi storia, la mail è info.ragnarpfizer@gmail.com. E c'è comunque già sistemata anche sul gruppo di Facebook, quindi la beccata anche da lì. Bene, o il gruppo di Facebook oppure sul blog ufficiale ragnarpfizer.blogspot.com. Yes. E poi un'altra roba che non c'entra nulla, però me la so segnata lì da dire, quindi la dico adesso. È uscito fresco l'attentato ai mondiali, che è il lavoro nuovo del nostro carissimo Digi Galessio, e lo scaricate a gratis su www.signorafranca.com. Yes. Digi Galessio e che è Bobby Kebab, che è Paura Lausini e che è un sacco di altre cose. È sempre lui, insomma. Se voi volete farvi del male, c'è anche un mix pubblicato sempre in questi giorni di 2 ore. Esatto, me l'hanno detto, sì. Confezionato dal nostro, lo abbiamo scaricato tutti, ma ancora non l'ha sentito. Beh, ci vuole 2 ore per sentirlo. So. Bisogna darsi malati al lavoro, calma. Capito? Cioè. Senti, c'è Premiere che scalpita, mi sa di là. Vai, guarda, io ho già finito, basta, non devo più niente. Il primo a partire con la selezione, poi aspettatevi anche delle sorprese questa sera. È Duccio. So it's up, you know we can't be having that. Son, there's rules you're supposed to go by, and this is my habitat. You say you're REPRESCENTING, you're frontin', boy, come against me. You're crazy soft while I come off with credibility. You're living in a fantasy world, kid, you're killing me. I start to work out, you start to mark out. My shit be crazy raw, and out here I got more clout. I'm right in your streets, like I'm urban outreach. I don't mean to preach, but I'll impeach a phony form of speech. Rhyme perfection, injecting like the surgeon. While you be in the club posing, tricking, always splurging. Whatever you got, I'm getting more. See, you're insecure, and you can catch my verbal 4-4. Now you're facing me, I'm your ultimate challenger. It's the Avenger, your fate is on my calendar. Notice the spirit I possess is more than holy. I'm gifted, unlimited, I fuck the rest. You niggas know me, my lines illuminate your whole spectrum. Crush your dome section, punks I wreck them. Mics I bless them, I don't know why. MCs would want to test a man so fly. Master of self, gaining wealth, cause I'm a mastermind. I stack my rhymes just for the rainy day, and you can pour out your 40 food. That's you and all, Jim. That's you and all. Bye, bye, ow. Bye, she bye, spy. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. Then she gets plenty more. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. Then she gets plenty more. Watching her driving by in her new whip so fly. Wish she could sing me a lullaby. To scoop her, I've got to try. In her eyes, there's a flame that burns right through my soul. Can't pretend to be cool, about to lose my control. Yeah, I know she's got plenty. Admirers, she's got many. Like an exotic fantasy. Into a frenzy, she sends me. Wow, I have to sit down and gather my wits now. Wanna caress those hips now. Wanna kiss those lips now. Hey, baby, I know you're calling, I didn't answer twice. But baby, that's okay, it's nice for you to call anyway, see, okay, see, hey baby, you know it's okay if you don't call me anymore, cause I got a plenty, truckload of niggas like you at my door. Girl layer and a heartbreaker, love maker, backbreaker. But then I made a mistake. Yes, I fell in love with this ill chick. Sweating me for money, my name in the bills. My homies told me drop her, cause it would be to my benefit. She used to say I'd better quit hanging with those derelicts. Romancing is my thing, but I can swing with no scheming hoes. Wherever my beamer goes, you know that I'm driving. Surviving in the 90s is a must, so I trust that everyone listen up. As my vocals give thrust, I bust my rhymes first. Never chasing a skirt, do much work while other suckers need more time to rehearse. Now back to the ex-girls, ex-lovers, ex-friends. It made me mad to find that she was only after my ends. She phones me and goes on about her new life now. I wish she knew right now. I think she's busted, let's discuss it. When I was with her, no trust, just fights. Just the he say, she say, and the neighborhood highlights. Now I got my new girl, or as I say, my baby doll. But still I'm getting crazy calls, my ex-girls got balls. Don't wanna play the field, cause I get loving at home base. Don't give me no long face, just exit with grace. You and I are the past. C'est la vie, much respect, girl. But now you're my ex-girl, cause I'm on with the next girl. This girl's look so good. Next. This girl's look so good. My man next. Yeah. I look a movie alongside the guru. Babe, I got red eyes. What? I got red eyes. I got red eyes. What? I got red, red. Give me the medicine, I ain't no leprechaun. It's the healing of the nation. I used to understand, but never overstand. African herbs, yes, I am. My skills boom, do the smoke-filled room, filling the contact like the Mac I then consume. All fools who blunder, so I take them underground, cause I got the crazy fat sound. I blend it with jazz and mystify the masses. We teach blunt rolling classes. My dialect reflects hip-hop at its best. After a fat bun assess, and yes, I guess that you could call it habitual. Why? Cause every day it's a ritual. Diplomatized stick, look out for Popo Whip. My nigga never skip, cause a bit like me don't slip. As we elevate, my ghetto mind stay cut like a double blade. But wait, red eyes. What? I got red eyes. Tell you what. Now that we're getting somewhere, you know we got to give back. For the youth is the future, no doubt that's right and exact. Squeeze the juice out of all the suckers with power and pour some back out, so as to water the flowers. This world is ours, that's why the demons are leery. It's our inheritance, this is my Robin Hood theory. Robin Hood theory. I seek son, deceive none, for each one must teach one. At least one must flow and show the structure of freedom. It's me done, cause petty things, we don't need them. Let's focus to create something great for all that sees them. They innocent, they know not what they face. While politicians save face, genius minds lay to waste. If I wasn't kicking rhymes, I'd be kicking down doors, creating social change and defending the poor. The guards always been militant and ready for war. We're gonna snatch up the ringleaders, send them home in their drawers. But first, where's the safe at? Let's make them show us and tell them hurry up, give up the loot that they owe us. We bringing it back around the way to our peeps, cause times are way too deep. We know the code of the streets, meet your defeat. This is my Robin Hood theory. My Robin Hood theory. I floss my rhymes like dentals. My mental's presidential. From the wild ghetto districts to the plush residential. Essential will be the message that I send you. I'm meant to elevate at every venue. Pops told me to pursue what is true and nothing other. And nowadays I pave the way for troops of my young brothers. Necessary by all means, sorta like Malcolm. Before it's too late, I create the best outcome. So I take this opportunity, yes, to ruin the devilish forces fucking up my black community. And we ain't doing no more interviews till we get paid out the frame, like motherfucking Donahue. We're taking over radio and whack media, cause systematically they're getting greedier and greedier. Conquering turfs with my ill organization, taking out the man while we scan the information. Setting it off, letting it off my chest, plus betting it all. Record sales, awards, accolades, I'm getting it all. Mad chips right above my grip, I'm letting them fall. Who said the G.O.D. wasn't coming to do his thing? Who said the industry wasn't gonna bow to this king? I paid dues, stayed true, so I made it through. If you handle your B.I. fly guy, you can make it too. Your potential is infinite, be wise, visualize, witness it. Why waste your time focusing your mind on little shit? Angie understands me, and Scratch got my back, so keep away from the fire. Burning desire, yo, we got that. Keep your feet on my shoes, live like it done pay my dues. Right now, we should start the show. Who's the suspicious character strapped with the sounds profound? Similar to rounds spit by Derringers. You're in the terror dome, like my man Chuck D said. It's time to dethrone you clones and all you knuckleheads. Cause MCs have used up extended warranties, while real MCs and DJs are a minority. But right right about now I use my authority, cause I'm like the wizard and you look lost like Dorothy. The horror be when I return for my real people. Words of split wigs hitting like some double desert eagles. Sporting caps pulled low and baggy slacks. Subtracting all the rappers who lack over premieres tracks. Severe facts have brought this rap game to near collapse. So as I have in the past, I will back. Dropping lyrics that be harder than sex and candle wax. And one dimensional MCs can't handle that. While the world's revolving on its axis, I come with mad love and plus the illest warlike tactics. The wilderness is filled with this. So many people searching for false bliss. I'm here with the skills you've missed. The rejected stone is now the cornerstone. Sorta like the master builder when I make my way home. You know my steeds. You know my stage. Let them know, do your thing, y'all. Keep it live. To the beach, y'all. A game star has got to be the sure shot. And it's like that. A game star has got to be the sure shot. And it's like that. A game star has got to be the sure shot. And it's like that. A game star. And the cleanest, and still I'm kinda fiendish when I'm at this. Been doing this for eons, peons best to catch this. Vision of excellence, precise rapping ability. About to make some dead presidents, macking the millions, G. The money though, it's got people acting funny, yo. As soon as some niggas get some light, they be like dummies, yo. Products and puppets and pawns, getting played out. When authentic niggas step up, respect be laid out. Major effect to your sector, I'm the corrector. Live and direct, waving my mic like a scepter. Supreme, exalted, universal. Leader, descendants of the kings and queens, the overseer, the overlord, cream of the crop, creme de la creme. Spent years building with cats in the streets, so they my men. Again, Gangstar has done it. Remember too much jewels back in the days, you'd have to run it. Check it, the ground be hot under our feet, so we be listening to beats to keep the cipher complete. Whether you kids be holding on the block all day, or you be puffing lie out in the back hallway, or whether you be in school or in the library, wherever you are, baby Paul, realize that your essence is divine, son. And let it shine, son, as we refine, son. Ayo, this shit'll blow your mind, son. We're royalty. Wherever I go, I wanna jump nothing less than the best. Whatever I choose to do, I have to stand up from all the rest. Whatever I do, wherever I go, I wanna jump nothing less than the best. Whatever I choose to do, I just wanna stand up from all the rest. And all the girls, they wanna spoil me. My honey anoints me with oils, G. After work, she greets me and treats me like royalty. Works with me, giving herself by my side. She don't sweat me for loot, my fame or my ride. A lot of ladies out there be looking lovely, but they don't got no control of their life. Inside, they're ugly. Word to Bugsy, enter Red Alert. Swaying tech and Funkmaster Flex to make your head jerk. Chicks go berserk when they see us in the spot. Casey, JoJo, and Primo creeping to the top. And to the sweethearts out there breaking hearts while we're taking part of this hip-hop art. Listen, yo, the best way, it ain't always the fast way. And yes, the best way, it ain't always to act nasty. I'll open up the door always before you pass me, baby doll, because you're royalty. Whatever I do, wherever I go, I wanna jump nothing less than the best. Whatever I choose, I choose to do, I have to stand up from all the rest. Baby, you know, use the troop of love, use the dub. I hold you truly above all the pigeons, chicken heads, gold diggers, and them. You got it going on, your game's bigger than them. Take me back to the sensual feelings. Your sexual healing soothes me after a day of business dealings. What you wearing? I know you look good, you even cook good. And I'ma steal your love like a crook would. Watch me. You must be out of your mind if you think you're getting away. Biatch. Are you working? What kind of work do you do? Boy, what is it you want to do when you grow up? Hey, yo, I'm gonna be a titter. That's all my eyes ecstasy. Victory is mine, yeah, surprisingly. I've been laying, waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. Now I'ma start collecting props, connecting plots, networking like a conference. Cause the nonsense is yet to stop. Jake, shake me down, haters wanna take me down, break me down, clap. All they heard was the sound. Yo, I scoped it out. I took your weak dream and choked it out. Your bitch don't really got no ass. She just poked it out on the D-Lo. I'm saying you versus me, yo. We can do this shit right here in front of your people. See, time is money, kid. And BS walks. And to me, it's funny, kid, when you meet heads talk. I see fans talk. Hip hop is not what it is today. It's the real, real. It's the pleasure. The feds only knew how I felt about the rap game. They relocate and change their fucking name. I eradicate move fakers, roll with coke shakers, get dapped to mad money makers, shared cells with life takers, had sex with rum shaker. I make moves so I'm an earthquaker. I've been known to instill fear. Although the world may be round, we still trapped in the square. City life got me bugging and tripe. Some die by the gun, some die by the knife. It's alright, like a game of spades. Trump type, premier hit me with music to ensure that it thumped right. And my flight will be taken solely at night, cause that's when the freaks come out, no doubt. And in the dark hours is when I was showered with the knowledge of my trade to get paid. Still I make moves like a snake in the grass, roundabout. I'll be dicking it down while you be assed out. Puff mad L's but never passed out. And if I'm caught up in the jam, I'll blast my way out. Brothers are amused by other brothers' reps, but the thing you know best is where the gun is kept. Cause in the night you'll feel fright, and at the sight of a 4/5, I guess you just might wanna do a dance or two. Cause he could maybe bust you for self or with a crew. No matter if you or your brother's a star, he could pop you in jet without a getaway car. And some might say that he's a dummy, but he's sticking you and taking all of your money. Talk. It's a daily operation. He might be loose in the park or lurking at the train station. Mad brothers know his name, so he thinks he got a little fame from the stick-up game. And while we're blaming society, he's at a party with his man. They got the eye and the gold chain that the next man's wearing. It looks big, but they ain't staring, just thinking of a way and when to get the brother. They'll be long gone before the kid recovers. And back around the way, he'll have the chain on his neck, claiming respect just to get a rap. A big song, a big tune. Biatch. Oh yeah, it's another gangsta short shot. Featuring the one and only Hella Hella Roy. Nice and smooth. Hey, a gangsta has got to be the short shot. Nice and smooth has got to be the short shot. A gangsta has got to be the short shot. Nice and smooth has got to be the short shot. A Greg Nice, a Greg NLCE, Dominum Basso, are we rock for a fee, not free. Maybe I'll do it for charity. Now my employer or my employee is making Greg and NLCE very MAD. Don't ever ever think of jerking me. I work too hard for my royalty. Put lead in your ass and drink a cup of tea. Beast the red alert and kick Capri. Ooh la la, I say Muhammad Ali, you say glass just clay. I say butter, you say parquet. It's alright if you wanna make a sway. On my way uptown, to the deuce to the trade. I originate, they duplicate. I praise the Lord and keep the faith. It's alright, keep biting at the bait. 92, 1 year later. Peace out, premiere, take me out with the fader. Okay, yeah. Eeny, meeny, miny, mo. I wreck the mic like a pimp, pimp, souls. Here's how it goes, I am a genius, I mean this. I shape this, you'll tape this, I'm kinda fiendish. You wish that you could come into my neighborhood, meaning my mental state, still I'm 5'8". Crazy as I wanna be, cause I make it orderly. You could say I'm sorta the boss, so get lost. The brother who'll make you change opinions. Dominions, I'm in them when it's time to kick shit from the heart. Cause I get a piece of the action, feeling satisfaction from the street crowd reaction. Chumps pull guns when they feel afraid. Too late, when they dip in the kick, they get sprayed. Lemonade was a popular drink and it still is. I get more props and stunts than Bruce Willis. A poet like Langston Hughes and can't lose when I cruise out on the expressway, leaving the bodega, I say suave. Premier's got more beats than Bond's got hate. Clips are inserted into my gun, so I can take the money, never have to run. Che emozione, quanti ricordi. Ripassare così i fondamentali di Gangstar, no? Lemonade was a popular drunk and he still is. Che anno sarà stato? Bah. Questo era, boh, 94. Metà sembra, degli anni 90. Sembra. Quello era più o meno il periodo anche in cui i Gangstar iniziavano a venire in Italia con un po' di amici buoni del tempo che bazzicavano il giro di Bologna, Firenze. Ci siamo ricordati di una data di Gangstar con Gelo de Damage ad aprire il concerto alla Festa dell'Unità di Modena. Sarà stato il 93-94. Allora facciamo questo ingresso dove fa una scarrellata di uscite, di cose da scaricare. Vai. Allora, la prima è il nuovo EP di Gammon, che è sotto nome Gilmar, si chiama Embrionale e lo potete scaricare da www.bluenox.com. www.blu-nox.com. Peraltro copertina bellissima, semplice semplice, un po' cosmica, a cura di Corrado McNamara. Ok. E poi passiamo oltre. Ma vabbè, volevo ricordare, anche se è già stato fatto, però magari se girate in rete vi trovate i vari segmenti. Il 20 di aprile, quindi la settimana scorsa, c'è stata una, diciamo, una trasmissione radio fra virgolette dove Dub Lab e Warp in collaborazione hanno fatto questo set dove c'è uno scatafascio di artisti tutti vicini a Flying Lotus per l'uscita di Cosmogramma, che uscirà il 3/4 di maggio. Trasmissione fiume, durata praticamente tutta una notte. Sì, a un certo punto andata, il segnale andava via, poi rientrava perché c'era troppa gente collegata, sì, da tutte le parti del mondo. Da Tohi Monsta, Gaslam Killa, Nosage, eccetera. Daedalus, sì, sì. Poi passiamo oltre. Quello si trova sul sito di Dub Lab, naturalmente. No? Quello credo si possa. Lo si può riascoltare sul sito di Dub Lab. Si può riascoltare sul sito di dublab.com. Oppure cercate Flying Lotus, Cosmogramma, c'è un sito apposta e credo ci sia il player lì per ascoltarlo. Poi su http://music.vit, come cioè ho scritto come un cane proprio. Vitechphones v Tech CH Fons PHONSE.com che sarebbe l'indirizzo di The Sounds of VTech. Potete trovare ora in diciamo in home page, un blog, comunque se ci andate ora lo trovate sempre in home page. È un mix che ha fatto DJ Nuts mixando tutto diciamo il repertorio di Arthur Verocai. E l'ultima cosa è che sempre collegata a questa cosa credo sia stata commissionata di Genazza da Mozilla, e volevo ricordare che sul sito di Mozilla potete fare il pre-order del box di DVD della serie Timeless, che sono 3 DVD dove ci sono i concerti di Mulato, di Sweet for My Dukes, che era il concerto che venne fatto da Artwood Ferguson e compagnia bella per Jay Dilla, e il concerto di Verocai. Ok. Basta, siamo arrivati in fondo. Facciamo così, nella mail che manderemo a tutti gli iscritti al gruppo Ragnan Paisa sul blog e su Facebook, vi rimettiamo questi link perché alcuni sono difficili, promesso, ora ce li appuntiamo, e il buon Tommy domani, quando pubblicherà tutto, vi metterà anche questi in link diretti, così non c'è da segnarvi. Ripetiamo, visto che ora ci sta, ripetiamo la mail velocemente: info.ragnampaisa@gmail.com. Inizia con un omaggio dovuto a Guru, anche il set di Tommy che vi ascoltate da subito. And I don't jest, cause the words I manifest, they will take you, sedate you. And I will stress upon you the need for you all to feed your minds and souls, so you can lead yourself to peace. I got a real objective here. I am effective here, cause I select a clear method. Cause in the life they're living, you can't have step. It starts with the young ones doing crimes for fun. And if you ain't down, you'll get played out, son. So let's get a car you know I fly with. Get a dent, pull a screwdriver, and be all quick with the dope ride, yeah, and a rowdy crew. We could bag us a Benz and an Audi too. Even a Jeep or van, goddamn, we're getting ours, yo. Take a trip up the strip and be like stars, so it doesn't matter if the cops be scoping. They can't do jack, that's why a young brother's open. Do anything, anywhere, any place. Buck wild in another court case. It's the code of the streets. They might see. Shit, I break kids, step into my zone, mad rhymes will stifle ya. Lines like rifles go blast when I kick some ass. A lot of rappers be like one-time wonders. Couldn't say a fly rhyme if there was one right under their noses. I hate those motherfucking poses, but I'm so real to them it's scary. And with my unique skills, nah, you can't compare me. And no, we don't make whack tracks. And all the suckers get pushed back when I'm kicking real facts. I represent, set up shit like a tech boy. You're paranoid cause you're a son like Elroy. And you'd be happy as hell to get a record deal. Maybe a soul you'd sell to have mass appeal. That you would grab me, undermine me, and backstab me. But I can see clearly now the rain is gone, the pain is gone. But what you did was still wrong. There was a few times I needed your support, but you tried to play me like an indoor sport. Like racquetball, tennis, pool, whatever. All I know is that you attempted to be clever. Nevertheless, cleverness can impress, cause now you've been exposed like a person undressed. And I can see through you, cause I'm the guru. And what you gonna do when I start to step to you? Cause when I pay you back, I'll be hurting you. And this ain't no threat, so take it personal. Attention that a mysterious force is loose somewhere in outer space. The mysteries of creation are there. Up in the sky? Up in the sky. The moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, we are focusing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure of which man has ever embarked. Ha ha. shall bring disaster to evil factors. Demonic chapters shall be captured by kings through the storms of days after, and to the earth from the sun through triple darkness to plaster, with a force that can't be compared to any firepower, for its mind power shared. The brainwave causes vessels to circulate like constellations reflect at night off the lake. Word to the Father and Mother Earth, seek an everlasting life through this hell for what it's worth. Look, listen, and observe, and watch another sea cycle pulling my peeps to the curb. Heed the words, it's like ghetto-style proverbs. The righteous pay a sacrifice to get what they deserve. Cannot afford to be confined to a cell. Brainwaves swell, turning a desert to a well. Experience the best teacher. Thoughts will spray like street sweepers. Little daddy street preacher, illustrious feature. Narrator you select, accompanied by deck, plus the DJ you respect. The 7.5 combined over the front line. The 10% is promoting slander in the airtime. Bear in mind, jewels be the tools of the trade. Sharp blades, heavenly praise, and dues are paid. Above the crowds, above the clouds, where the sounds are original. Infinite skills create miracles. Warrior spiritual, above the clouds, raining down, holding it down. Yeah, I leave scientists mentally scarred. Triple extra large, wild like rock star. I see now you got me pissed off, blast off, lift off. Time for me to twist off a vocal fist off into your dome piece, home piece. I heard your chick wants to bone me. I get wild like rugby, respected like Bugsy. Don't even ask me, cause I'm living lovely. Born to succeed, foes bleed, true indeed. The horror combat will rock that, you're one of my seeds. When I first busted on the scene, nigga, you knew I had more than a gangster lean. I mean, my lean is gangster, though, so check it. I stick an MC for a spot and sign in blood on his whack record. Booyaka to your face as I ruin ya, clown ya, dumbfound ya, while I'm screwing the fuck out your girl. If she steps into my world, I'm not the tallest, but that ass I'll polish. And if the hooker runs her mouth, she gets cut off. But then you'll sweat her, cause like my leather, your butter's soft. Your style stinks, kid, you're garbage. And if you... I'm big, once you step in the arena, cheetah, you're gonna be amazed when you gaze at the armor on this leader, fully clad and glad to fight a cause. I won't pause, fear is a joke, slow poke. I'm like claws that'll rip, cause your gift is merely flesh, superficial, and I wish you would give it a rest. But if you don't, I'll unsheath my Excalibur like a noble knight. So meet your challenger, a true hero, while you're a true zero, getting beat to a pulp so that you can't run for help. I heard a gulp in your throat, cause you hope that I'll be merciful. But poop up the maiden strut as I rehearse a few battle drills and watch your bladder spill yellow fluid. Check how I mellowly do it, face to feet to this beat. You can tell I'm into it as I'm pulling out my lance to kill you and advance to the winner's throne, cause I own you once you step in the arena. Tell the people what you're here for. Song that makes you rock on. Some people go to places where they don't belong. Whether wrong or right, a lot of people fight. But I'm here to bless this mic, alright? I take action the minute that the crowd gets hype. I'm type crashing down like a meteorite. I'm Bogarted, mics and whole stages, destroying MC's dreams from words to whole pages. Their rap books look more like scrapbooks with their fictional fairy tales and frail ass hooks. A lot of shit has happened since I started rapping. There's been enough beef and enough gat clapping. There's been mad signs for this brother to heed. And while some choose greed, I choose to plant seeds for your mental, spirit, and physical temple. Bob your head to it. There's the water, you've been led to it. Bathe in it. A long time you've been craving it. Word is born, these cats been on the mic fantasizing a lot. So-called MCs, wannabe rappers and all that, whatever. You get your not rock, kid. Yo, you thought you bought your best lines, but they couldn't touch mine. I rocked you in your not, hope you have better luck next time. You thought you bought your best lines, but they couldn't touch mine. I rocked you in your not, hope you have better luck next time. So just perhaps you wanna challenge my style of rap. Talking about you bus caps, we know that's just a pile of crap. The underground is where I dwell at. It's where I find my heaven and where you find your hell at.

fresh attacking like a slick Apache. Lyrics are trigger happy, blowing back your wig piece just for the way you're looking at me. Cock back, blow, I hit you up right now. I don't know why so many of y'all wanna be thugs anyhow. Face the consequence of your childish nonsense. I can make your head explode just by my lyrical content. Get you in my scope and metaphorically snipe ya. I never liked ya, I gas that ass and then ignite ya. The flamethrower, make your peeps afraid to know ya. How many times I told ya, play your position, small soldier. My heart is colder, makes me wanna resort to violence. Stop beating me in the head, son, nah, I'm not buying it. I'm ready to blast, ready to surpass and harass. I'm ready to flip, yeah, and ready to dip with all the cash. I hold my chrome steady with a tight grip. So watch your dome already, cause this one might hit. The full clip, you wanna mess with this? Gangstar, one of the best yet. I'm nice like that. It's all good, in this business I'm real. Full clip, you wanna mess with this? Gangstar, the best yet. I'm nice like that. It's all good, so I suggest you take a rest. Con Full Clip di Gangstar si chiudevano anche i 20 minuti di Tommy, anche questi interamente sì, dedicati naturalmente alla memoria di Guru. Che mi ha ammazzato, Tommy ha vinto lui? Ma sì, alla grande. Cioè, io ho fatto un troiaio, un arrosto, non so, avrò fatto degli scavalli tremendi. Tommy ha studiato, capito? A caso, Tommy, io non mi ero preparato assolutamente. No, Tommy non ha studiato perché il serato ce l'aveva a casa io, quindi... Quindi era una lezione che aveva portato a memoria. Tommy è freestyle, okay, proprio. Tommy, i gangster ce l'aveva nelle vene. Nelle vene. Allora, prendete una penna, un calamaio, un foglio bianco, un block notice, quello che vi pare, perché ora partiamo con un sacco di segnalazioni prima della sorpresa della puntata di oggi di Ragnar Paisa. Allora, partiamo con ordine da mercoledì 28, dovrebbe essere la prima data segnata sulla nostra agenda. Io ho segnato un Mille Lemmi e Daiemi all'Australiano Pub di Firenze. Si trova proprio a Santa Croce, ingresso gratuito. Dietro Santa Croce. Dietro Santa Croce. La vietta quella stretta che parte dallo slargo di Via dei Nervi. Insomma, lo trovate, dai, Australiano Pub. Tu su mercoledì hai altro? No. Cioè non so neanche che giorno è mercoledì, che numero è mercoledì 28. Quindi, ok. Mercoledì 28. Invece giovedì abbiamo proprio una caterva di segnalazioni da farvi. Giornata pienissima. Vai, dille veloci. Allora, alle 18:30 Gopher a.k.a. King Bleso è a presentare il suo nuovo disco da Marky Moon alle 18:30. Alla grande. Marky Moon, il negozio di dischi di cui abbiamo parlato spesso. Alle 19:30 si va esattamente di fronte alla Casa della Creatività, c'è Urban Being Crew per la serata quella Local Heroes, loro arrivano da Empoli. Alle 23:30 al Club 21 Gopher D in compagnia del nostro Colossius di Azzeni e come MC abbiamo il Daretta e lo stesso Mille Lemmi per la serata Lo-Fi Bar. Al Doom invece lo stesso giorno c'è anche l'Hi-Fi Bar con Numa Crew, Alessino e un sacco di altri ospiti. Anche lì tutto a ingresso gratuito. Senti, passate con le pentole in cucina? Questo è il Biga che ci fornisce i tappetini, lo sai? Venditore porta a porta di tappetini. Ok, il 30 invece che è venerdì alla Cité c'è Bobby Kebab alle 19, anche la notte bianca di Firenze mi sa, quindi c'è un sacco di roba a giro. Il Biga alle 19 invece è da Cuculia, libreria con cucina via dei Serragli. Al Pop Café invece Overnights All Star tutta la notte a suonare lì davanti. E a dritto. Io invece suono sul tram di Piazza della Stazione. Su binari. Ma te lo diano quando passa oppure non t'avvertano. Ti fanno mettere il primo pezzo, poi fanno vai! O su di me gli viene fuori la cattiveria quella più acida. Allora. Cioè, Andrea, va, basta guardarti negli occhi. Però, cioè, te le dico anche per un'ora e mezzo. I Biga ci mette tappetini sotto e io continui a oltranza. Te parli e io ti insulto. Allora, io posso andare io? Vai. Oh, no, se ne devi di altre? No, finito. Okay. Allora, io ne devo di giusto due, non so come ti è aggiornata. Vai. Allora, sabato 1 maggio, che ci siamo, Umberto Smaila. No, sabato, sabato 1° maggio, c'è il Frangi e il Boccio assieme a Schoolboy, a.k.a. me, io medesimo, me stesso e Tommy, al Velvet a Lucca. Non mi chiedete la via, non mi chiedete niente. Velvet sta a vicino alla zona dei centri commerciali, sì, vicino alle mura. Vicino alle mura. Lucca è tutta intorno alle mura, no? Vicino alle mura. E l'8 maggio invece, che già siamo già più in là, però si mette le mani avanti, è bene segnarselo. L'8 maggio Just Station e Tsunami ospitano Cool Runnings da Roma. Buona. Cool Runnings sono fratelli nostri, vostri amici, quindi, ve li raccomando. Diciamo i due sabati collegati, da una parte Schoolboy è quello che resta. No, insomma, sono due sabati differenti, di Andrea. Due sabati collegati, dico, l'uno e l'8. Ah, okay. L'uno ci siete voi e l'8 ci sono i vostri amici. Vedi? Te ce l'hai no, per partito preso comunque. No, è che ho detto, ora sta già facendo confusione. No, invece no. Comunque il tutto, non abbiamo detto dove, al Faff, allo Smannoro. Però Firenze. Direi basta, via, basta. Le altre cose le diciamo dopo. Esatto, per non rubare altro tempo a quella che è la sorpresa live di questa puntata di Ragnar Paisa. Lui l'avete sentito spesso nelle selezioni dei nostri DJ, ne abbiamo parlato altrettante volte, si chiama Mille Lemmy, è un validissimo rapper fiorentino, è uscito da poco il suo album nuovo in free download sul suo MySpace, si chiama Nosocomio Tungsteno. E questa sera con Biga in assistenza ai beat lo sentite live proprio dentro lo studio 1 di Controradio, Ragnar Paisa. Oh, oh, oh, eccoci, buonasera a tutti quanti. Ciao Andrea, ciao Ragnar Paisa. Che banda lei? Oh. Oh, oh, che banda lei che lei? Lemmy Mille Rap, buonasera Ragnar Paisa, ok? Se mi tiri un po' sui beat in cuffia, almeno ci sistiamo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Volendo anche un altro po', gracias. Eccolo lì. Grazie mille. Yo, è il funky mystic mig di mo, brividi do, ne dubiti no. E allora carta bianca a partire da mo. È il funky mystic mig di mo, brividi do, ne dubiti no. E allora carta bianca a partire da mo. È il funky mystic mig di mo, brividi do, e ne dubiti no. E allora carta bianca a partire da mo. È il funky mystic mig di, brividi, ne dubiti no. E allora carta bianca, vai. Oh oh, è il funky mystic mig di mo, brividi do, ne dubiti no. E allora carta bianca a partire da mo. È il funky mystic mig di mo, a Ragnar Paisa, te capito come le, che le, che le, che le, che le. Funky mystic mig di mo, brividi do, ne dubiti no. E allora carta bianca a partire da mo. Sfido il video, mi bendo e guido qui con Emilio, ma esigo. Carta bianca sui conti in banca, le birre in frigo. Sfrego i palmi, rido, prego, salmi, le governi, bevo. In sti inverni, sempiterni, figo. Credo no, e ora vedo se mi spiego. Prima di hodo e pure pago, dopodiché non mi dica, piscio fuori dai vaso. Carta bianca, sera, un gallo canta la sua primavera. Rima, tu rimani, la mente, l'orecchio e l'occhi, l'apri. Chi è empatica la sintonia tra la pagina bianca, vuote, libate la mente, libera sotto tutti i lati, libri di nulla. Non leggere fra le righe, viaggiando tu vuoi. Pensa a svuotare gli spazi, chi a riempirli, ci si pensa noi. E oh, è funky mystic mig di more a Ragnar Paisa con la fissa del foglio da riempire. Oh, è il funky mystic mig di mo, brividi do, ne dubiti no. E allora carta bianca a partire da mo. È il funky mystic mig di mo, brividi do, ne dubiti no. E allora carta bianca al telefono mo. Oh, è il funky mystic mig di biggie biggie bi sui beat. E te ha capito come l'è Ragnar Paisa, roba buona selection. DJ Colossius, pupati. Yeah, yo, Andrea mi. Un sacco di appuntamenti questa settimana, mi raccomando, non ve li perdete neanche se non potete. Yeah. In the corner, Piotr, my eye, I saw you in Rudy's. You were very high, you were high. It was a crying disgrace. They saw your face on the counter by your keys. Was it Thank you. Biggie B. Roba buona. Che banda lei che lei. Ho fatto un disco, si chiama così. Noso, comio tung. Steno, eno. Noso, comio tung. Noso, teno. Comio tung, tung, comio. Noso, teno, com, comio tung. Steno, steno. Steno, comio. Noso, tung, tung. Tung, noso. Tung, noso, noso, comio tung. Steno. Noso, comio tung, steno. Piace. Noso, comio tung. Steno, enon. È Mao Tse, è energia, enon. Logia, erba. Freno, blu, moon. Boccia, drum, elegia. Cercando morfeo, fa fror, ma morfe, bra. Tanto fa, gosto, fra, taglie, fa, tanto. Caldo o troppo freddo, battaglie di Lepanto non è il tempo, è un simposio al capestale. Luce elettrica e fiale. Falene fra le schiene nude, tumide, umide, lunatico. Dalla cantina all'attico, attico. Metti piglia, la mattina c'è un sole placido. Noso, comio, tung, steno, costruisco il battito. Ma se ne va di me, se c'è chi ci va da sé, io mi costruisco le mie medicine. Oh, ma se ne va di me, se c'è chi ci va da sé, io mi costruisco le mie medicine. Oh, noso, comio, tung, steno, eno, noso. Comio tung, noso teno. Comio tung tung, comio. Noso teno com, comio tung. Steno, steno, steno comio. Noso tung, tung. Tung, noso, tung, noso, noso. Comio tung, steno. Noso comio tung, steno. Oh, noso, comio tung. Steno e non, noso, comio tung. Noso teno. Comio tung, tung, comio. Noso, teno com, comio tung. Steno, steno, steno comio. Noso tung, tung. Tung, noso, noso, comio, tung, steno. Noso, comio, tung, steno. Oh, noso, comio, non so, è comico. Non più di un'auto, è encomio. Ma non ne ho voglia, lo spengete questo neon, oh no. Ma è freddo questo ferro, son, oh, io. Sulla lettiga, si succedono soffitti. È solo un susseguirsi di soffitti. Sotto i tetti o ricrearsi di sorriso. Noso, comio, paradiso. Big, big, big, big, big, big, big, big. Ragnam Paisa. Ragnam Paisa. Telepatic Orchestra. Battiato con te lami, mi donna Audrey Hepburn, come la guardi tu lami, che donna tiene gli uomini alla montanto tra i tibetano limpionici, c'è chi infama il Dalai Lama, la mala fortuna dello sport che porta bruma, Uma Thurman, mi fai cori quando canto. Chiamo DJ motocross sport, un sorriso a Timbuktu tagliando il sampo. Cosa vuoi che dica la gente quando canto, canto per chi mi sta accanto, tanto è tutto uguale. Come quale shock che c'hai da dirmi, cane, porco ed io maiale. Sludro nel putrido del cantina sociale, voglio una birra, la voglio subito. Dre, love, a love, la drer, mangio col poco che si moccia in frigo. Da Yema Livorno torna a Firenze, yet air. Johnny Boy e Azzeni, torna a casa la sera briaco su una bici senza freni. Ma perché mai amiamo le nostre donne, ma perché mai il lavoro Teddy ha, ma perché mai il mio freezer non genera moneta, ma perché mai gli oroscopi cinesi elargivano consigli ai nostri tempi sconfitti, ma perché mai Dado Moriyama gioca con le luci sulle foto come Simone sui fogli, ma perché mai Jenny ha battito troppo, ma perché mai, oh, il muro di gomma battiato con te la mia donna, ma perché mai il lavoro Teddy ha, oh, oh, oh. Ma perché mai Ragnar Paisa c'ha disti bomba? Ma perché mai, oh, oh. Oh, belle ragazze, qui si fa un po' di rappone. Mentre vedo che continua ad arrivare gente imperterrita. Vergonzoni in stile in stile life, stop motion, sciorinando frasi in scia, orinando in vasi gela, tine d'eco, grafia, drammaturgo greco, di tuffo, alfabeto e bit a spreco. Dalle finestre ste teste le de, testo come dire de, capito, sto con corpi acefali e crani avulsi dal contesto, capito, se capito in un lago di lingue ci nuoto, ma noto che non è salato e sciapo, del resto del testo, si sa che sto con te, sei più non dimandare, gli hai più non lo svelare, gli hai più non domandare, qua giù manca semiotica e qua giù si resta, ma giù rispetto a cosa, forse ottica, mi metto in prospettiva e aspetto, sono in aspettativa del pro o a pro dell'aspettativa, se ti va aspetti, sì, ma che pro, a meno che sia propositiva, quindi a pro del pro che mi son messo per linee d'acqua ad una sul mio cranio, io col mio io il martellio in stilicidi, oh, per linee d'acqua ad una sul mio cranio, io col mio io il martellio in stillicidi, oddio, solo se il limite poi scoppio, sedo il tedio col caleidoscopio, non so l'edo, beh, datemi l'oppio, se non è troppo, che poste, gocce in testa, è dura star qua sotto, ho trovato il metodo perfetto per detonare note per effetto di gave, toni a mille mila mega, toni e l'output equivale a toni, mega, tsunami e cavalloni, cervellotico in arche, paranoid, android, rebbi, asteroidi, io ideo, deo, grammi, orchi ed orchidea, orchestranti, ostici ritmi, sollevanti venti sui miei 21 grammi. Io con il riverbero, cerbero, celebro, leso io Rayman, penso a chi che gioca stillicidio il martellio. Ed io col mio io, le perline sul mio cranio ad una, Biggie, Biggie, sempre il giusto timing. You ever want something? No, you shouldn't have. Romantico. The more you know you shouldn't have it, the more you want it. And then one day, you get it. So good to you. But it's just like my girl. When she's around, I just feel so good. Yeah, yeah. Grosso tributo ad Ether. Entrambi presenti in the place to be. Yeah. O dai o vuoi o vieni o vai o vivi o voghi o vaghi contro la corrente da capito come le che le che le. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dassi da fare per avere il tempo di sbrahassi su una maca macca già di per sé l'indole di chi lo passa lamentassi insinuosi e complessi messi sentieri si uniscono e scendono in un avvicendarsi in sincrono oh non vedi o non vuoi veni vidi indimmi ravvedi sulla veridicità mi confino il micro affine immune non è sinonimo di munito di numerosi anestetici credici lunedì non sarà così dice però nervosi sì sì ma ne ho visto di cesti per riscovalli scacciamostre sbarazzambilisti rovi che mi imbrigliano così speedy mix franchisco le vertebre sugli stipiti che dici scomodi, rotti dialogo tra più simili, ora volano solo missili tra gli ignoti militi messi lì, ci vedo solo dei limiti, nel dubbio tra un'oceano ed una vasca da bagno, diagnosticato lo stagno, vola vola il topo ragno, ho visto più di una volta un fuoco, le sari sono un solfia e lei è un peccato oltre che uno spreco, coperto da una coltre di noia, un entusiasta latente, sull'ora dello svilimento si aggira per il tuo salotto con lo sguardo assente, è intero germina in capsule, stabilizza la flora, affiora un filo di fece, facile frutto di quel falafel, filo fare un folto, file fonde, riflesso e farfugli gli porterà pace, ma rimarrà la porpora, in cielo fiumi di porpora, in posa fetale, pensa al globo e chi è che lo popola, la posta finale è un'incognita, tra ragni e mani, mini poni, riponi, guadagni, mani, manie, manicome, se poi ottieni una proroga, rido sul rogo ed è uno sfogo d'arroganza, gogo mio malgrado sudo, aspettando godot, odo, un filo di vento portarmi un fisco, prego che sia di convoglio, di ciò che porta la volta che un sogno ho già visto, dai io vuoi, io vieni, o vai, io vivo, voglio vaghi contro la corrente, davi, oh, oh dai io vuoi, io vieni, o vai, io vivo, voglio vaghi contro la corrente, cici, davi, oh. O dai io vuoi, io vieni o vai, o vivi o voglio, voglio vaghi contro la corrente, te tu la capivo, vai o vuoi, o vieni o vai, oh oh, banda le, che banda le, che le, qua simastica, metasemantica, antica, antica, mera di cervello, non mi ci passi, assi, omi, assi, curo che si dia per brassi, che li sconto, asimastica, metasemantica, antica, antica, mera di cervello, non mi ci passi, assi, omi, assi, curo che si dia per brassi, che li sconquassi, lemmi mille rap, apparentemente, appartenente ad altra forma, liquida solida, gas, forna, orda, di rap, orna, mentale, collegamenti, pertinenti, pertenniente, peste, corna, ornasce una nuova era, oh, tracottante, lirismo, sillabico, scettico, ermetico, mimetico, rap, bandiera, quasi astica, metà semantica, antica, antica, mera di cervello, non mi sci, passi, assi, omi, assi, curo che si dà per prassi, che li sconto, assi, astica, metà semantica, antica, antica, mera di cervello, non mi sci, passi, assi, omi, assi, curo che si dà per prassi, che li sconto, assi. Wow, wow, wow, wow. applausi al nostro Mille Lemmy, tutto in tempo reale, tutto live, tutto in freestyle. Tra l'altro il primo ospite ufficiale. È vero, è il primo. A parte quella volta che volevi cantare te, ma mi avete cassiato così. Trovate questo materiale, tutto l'album naturalmente, sul MySpace del nostro www.myspace.com/millelemmy. Io devo finire, prego, il di leggere il foglio. A parte, volevo salutare Grana che sta a New York, che ci ha mandato un messaggio, ci sta ascoltando, quindi lo salutiamo. In streaming, esatto. Oh yeah. E poi, allora, su music-selections.com, che è il blog di Martina e Giopparelli, l'abbiamo insomma nominato, citato svariate volte, trovate il mix nuovo di Marty McFly, si chiama Strictly for 800.000, che non mi so come si dice in inglese, hits. E vabbè, è così. 100.000 1800.000. Bravo, io ho i numeri, ho sempre avuto un po' o di qualcosa problemi. Del genere. Una roba. Vabbè, insomma, andate a prendervelo. E poi 800.000. Che vuoi? Vabbè, apriamo una... No, avevi capito male. Apriamo una discussione apposita. Ho detto 800.000 e basta. Vabbè, buona lì. E poi l'ultima cosa, questa ci riguarda. Questa settimana, dopo mesi che in realtà è tutto pronto, ma un po' è stata colpa mia che ho temporeggiato per finire le grafiche, comunque ora è tutto pronto. In settimana, magari fate un salto sul blog, a parte per la puntata, ma iniziamo a buttare su questa cosa che si chiama Beat a Confronto. Sono dei mini EP fatti da personaggi svariati. Il primo è di Bubu Colossius. Beat a Confronto, idea venuta fuori dalla serie Jazz a Confronto della etichetta Oro italiana, ok, di Aldo Sinesio. E quindi niente, partiamo col primo, poi altri ne verranno prossimamente, poi comunque insomma ne parleremo quando via via li mettiamo su. Intanto in settimana vi beccate il primo, mi raccomando. www.ragnampaisa.blogspot.com, resta quello l'indirizzo. Ok, sono le 22 passate da 13 minuti, ancora una quindicina di minuti abbondanti per Colossius passato in console. Poi arriva il GR in edizione Flash da Popular Network. Noi ci risentiamo in diretta lunedì prossimo e per tutte le comunicazioni naturalmente l'indirizzo mail ve l'abbiamo dato, quello del blog ce l'avete, su Facebook Ragnan Paisa lo cercate, il gruppo lo trovate, che volete di più? Vieni. No, volevo dire, Andrea. Prego. Ma non ti sembra stagione di levare il cappellino di lana? Non è di lana, è di cotone. T'ha fregato. Credevo ti preparassi per la sagra di Chiocciolone. It was yeah. I'm gonna go get some more.

says it, damn it. Is that it? Boy, don't get smart with me, because I'll knock your ass in the middle of next week. Right. Big tune.